si chiama Il Capitale nel XXI secolo, di Piketty. Allora, lui sostanzialmente in 928 pagine racconta come il problema sia proprio quello menzionato da Marco, cioè che la R, che sta per rendita, sia costantemente da tanto tempo superiore al tasso di crescita. Quindi questo cosa vuol dire? Che se il capitale cresce più rapidamente della crescita economica e demografica, significa che il capitale che è stato accumulato crescendo sempre di più e la crescita essendo sempre minore dal punto di vista sia economico che demografico, il capitale ereditato diventa preponderante, sempre più schiacciante. Quindi il ragionamento suo della rendita, che ha radici come voi insegnate a me, secolari, di rentier, rentier state, l'eutanasia del rentier, tutte queste robe qua, hanno anche proprio poi un effetto molto pratico, perché nel momento in cui hai due grandezze e una di queste cresce molto più potentemente dell'altra, è evidentemente che poi finirà per prevalere. E quindi possiamo anche cominciare a raccontare un po' di storielle. Ci sono due riviste che voi conoscete, una è americana, che è Forbes, che pubblica dal dopoguerra la classifica degli uomini più ricchi, dei 500 uomini più ricchi americani, e c'è una rivista tedesca che si chiama Bilanz, che fa più o meno la stessa cosa per gli europei. Fino a 30-40 anni fa, le fortune di cui si parlava in Forbes, nelle classifiche di Forbes, erano per il 70% frutto, diciamo, di primogenitura, quindi di imprenditori che avevano avuto successo e quindi erano le fortune fatte da loro, e il 30% invece fortune che venivano da generazioni precedenti. Bilanz aveva una statistica pressoché identica, solo ribaltata. In Europa era il 70% di derivazione successoria e il 30% invece a livello di creazione di nuova ricchezza. Oggi, 40 anni dopo, 35 anni dopo, dicono esattamente la stessa cosa. 70% anche negli Stati Uniti è per via di successione, quindi fortune accumulate dalle generazioni o dalla generazione precedente. Il ragionamento, che non sono sicuramente io che lo faccio né per la prima volta né in maniera particolarmente profonda, è quello che era stato già capito tanto tempo fa, che il rentier e l'imprenditore, più che due figure diverse, sono forse due momenti diversi. Quindi l'imprenditore tende, una volta avuto successo e conquistato una posizione di mercato che sia dominante, oligopolistica o addirittura monopolistica, tende a trasformarsi prima in diciamo funzionario, manager della sua impresa, ma più distaccato, fino a poi a lasciarla andare da solo e diventare un rentier. L'esempio che Piketty fa, citando a braccio, è quello di Bill Gates. Bill Gates ha cominciato, come tutti sapete, nel famoso garage, eccetera, eccetera. Oggi come oggi si occupa della sua fondazione. Poi le fondazioni americane meriterebbero un capitolo a sé, ma il capitale genera altro capitale in modo praticamente autonomo. Quindi una volta avviato il volano va abbastanza da solo. E quindi ecco che si è passati, come dice Krugman, premio Nobel per l'economia, eccetera, siamo passati dal profitto alla rendita, per tornare a quello che diceva Marco. Allora, io sono stato, diciamo, stimolato da Marco, che ha messo una specie di grande piano strategico a livello di quarto incontro, con dei capitoli insomma abbastanza significativi. Riassumo: le grandi istituzioni finanziarie sovranazionali, quindi banche centrali, Fondo Monetario Internazionale, eccetera, eccetera. La domanda è: di chi sono i soldi, chi decide, storia e storie. Secondo punto è il rischio, antropologia dell'homo economicus, che è un'altra robina da ridere. Poi capitalisti senza capitali e finanzieri senza soldi, e questo è divertente. Dalle cambiali, questo quarto punto, alle carte di credito, cronistoria dell'uomo indebitato contemporaneo. Ecco, allora, per capirsi, al di là del fatto che, come sapete, noi abbiamo iniziato chiamando il ciclo Non è mai troppo tardi, no? Per ricordare un'antichissima trasmissione che, quando una TV ancora in bianco e nero, aiutò a alfabetizzare il paese. Quindi in questo caso noi, per quanto ci cerchiamo di alfabetizzare rispetto a tutte queste questioni. Ma il motivo di andare dentro a spiegare tutte queste istituzioni, capitalisti, tutti questi nomi, eccetera, poi alcuni anche ci sfuggono, non li conosciamo, è che perché cosa sono diventate, no? Noi abbiamo sempre pensato che avessero anche un peso sovrastrutturale, no? Tutto questo genere di strutture, soggetti. E oggi come oggi però possiamo invece cercare di analizzarle ancora più nel profondo, perché hanno assunto un peso sempre più determinante. Ma perché hanno assunto un peso sempre più determinante? Perché nella realtà anch'essi, così come a livello nazionale, e qui si potrebbe aggiungere che c'è una spiegazione a quello che viene chiamato il sovranismo, e a livello internazionale, in primo luogo addirittura dalla più grande potenza che sono gli Stati Uniti d'America, non c'è più la politica. In che senso? Nel senso che comandano molto di più tutte queste strutture, e tutti i paesi, bene o male, debbono obbedire. Non farò l'esempio della Grecia, che poi con lacrime di coccodrillo qualcuno dopo un po' ha detto: ma forse siamo stati troppo cattivi. Però nella realtà questo venne realizzato. Quindi andare a capire come si muovono, chi c'è dietro, questo veramente è il comando. Ed è un comando che si concretizza proprio nel modo più ragionieresco della partita doppia, cioè il dare e l'avere, molto semplicemente. Ma non c'è, come dire, insomma, l'epoca che si guardava gli Stati Uniti come una nuova via, no? Per un futuro migliore è finita. Quello che possiamo dire con assoluta certezza è che invece il ruolo degli Stati Uniti è andato a indebolirsi, e tutto questo dentro non tanto la possibilità di mettere ordine, e l'Ucraina ne è un esempio, ma bensì che si accelera il disordine mondiale, in quanto al momento nessuno può sostituire quello che erano e che sono gli Stati Uniti per mille questioni, ma al tempo stesso il disordine aumenta, perché ognuno cercherà di partecipare al banchetto, come viene detto oggi, di tutto il globo terracqueo per prendersi una fetta. Quindi ecco, per questo che cerchiamo di analizzare meglio tutte queste istituzioni che nella realtà sono diventate il vero governo, perché insomma di idee per il futuro ne hanno ben poche, ecco. Basta, lascio la parola a Massimo. Allora, io volevo leggervi le ultime righe del libro di Piketty, perché è da qui che noi siamo partiti il primo giorno che ci siamo visti. Lui dice, ma è anche vero che i ricercatori di scienze sociali, tutte le scienze sociali, i giornalisti responsabili di tutti i tipi di media, i militanti sindacali e politici di ogni tendenza, in primo luogo tutti i cittadini, dovrebbero interessarsi al denaro, alla sua misurazione, ai fatti e ai processi che lo riguardano. Chi ne ha molto non dimentica mai di difendere i propri interessi. Il rifiuto della contabilità ha raramente giovato ai poveri, ai più poveri. Quindi noi siamo partiti dall'idea che di questa cosa bisogna occuparsene seriamente. Abbiamo parlato di elefante nella stanza, abbiamo parlato di una presenza che giustamente non è sovrastrutturale ma è assolutamente infrastrutturale. E quando noi parliamo, e parlo in prima persona, delle grandi istituzioni finanziarie, c'è scritto banche centrali, allora uno nella sua innocenza pensa che le banche centrali siano emanazioni dello Stato e poi nella fattispecie del governo e che quindi abbiano una funzione pubblica e quindi siano partecipate da tutti i cittadini, sia qualcosa che ci appartiene e che in qualche modo, anche se indirettamente, controlliamo. Questo non è purtroppo il caso, perlomeno Marco menzionava gli Stati Uniti, la Federal Reserve o le Federal Reserve, perché sono 12 in totale, con diciamo il mozzo della ruota che è la Federal Reserve di New York, non è assolutamente posseduta a livello istituzionale, ma se volete l'azionariato, quello significativo, andiamo a scoprire che ci siamo, allora la Federal Reserve ha tra i maggiori azionisti per un totale del la Federal Reserve di New York, che è la mamma di tutte, per il 72.3% è posseduta da Citibank e JP Morgan. Quindi la Federal Reserve, che ha la funzione di non stampare moneta ma di prestare soldi, perché questo è quello che fanno le banche centrali, non generano moneta, generano debito, credito. Quindi se voi mettete insieme Citibank, JP Morgan, Morgan Stanley nelle sue varie emanazioni e Goldman Sachs, arrivate a 85%. Quindi già stiamo parlando di una realtà che noi viviamo in un modo sfalsato, cioè noi vediamo delle cose o pensiamo delle cose che non sono la realtà. Ci sono, se vogliamo proseguire, altre banche centrali. Banche centrali, per esempio, Banca di Francia è una banca totalmente statale, quindi è posseduta dallo Stato. La Banca d'Inghilterra, che è stata la prima banca centrale fondata nel 1694, non lo è, non lo è mai stata. È sempre stata una facente funzione pubblica, ma sostanzialmente in mano ai banchieri inglesi, quali se la sono inventata fondamentalmente per prestare soldi al governo che stava facendo le guerre, allo Stato che faceva le guerre, chiaramente con una remunerazione adeguata. Abbiamo anche menzionato Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Vi ricordate, forse l'ultima, la penultima volta che ci siamo visti, che abbiamo parlato di quello che è successo in questo posto chiamato Bretton Woods negli Stati Uniti nel 1944. Il 44 poi torna perché si sono trovati nei primi 20 giorni di luglio in 44 paesi, sostanzialmente a definire quello che sarebbe diventato l'ordine mondiale più dal punto di vista economico che politico. E sono nate praticamente da lì le iniziative che hanno portato a tante cose: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, abbiamo parlato del discorso della convertibilità in oro, dei tassi fissi, del legame dollaro con le altre monete, eccetera, eccetera. E anche qua è interessante che la genesi di questo incontro è stato un incontro che penso sia irripetibile. Chiaro, le condizioni, la guerra non era ancora finita, però 44 paesi che trovano in 20 giorni la quadra, chiaramente con gente che tirava da una parte e gente che tirava dall'altra, è un fatto abbastanza... abbastanza raro e particolare. Allora, per raccontare anche qualche cosa all'interno di questo Bretton Woods, si sono scontrate due anime tra le tante, ma i due personaggi, diciamo, più di peso erano il famoso John Maynard Keynes, quindi keynesianismo e tutto il resto, e questo Dexter White, americano. Una piccola parentesi su John Maynard Keynes, che è un personaggio molto interessante. Lui nasce l'anno in cui muore Marx, 1883, da famiglia di alto lignaggio inglese, papà economista, mamma suffragetta che combatteva per i diritti civili. Nasce da questa doppia influenza un personaggio abbastanza singolare. A parte che era una pertica di 2 metri che faceva e disfaceva, nel senso che non aveva paura di niente e di nessuno, era un super egotista, ma un uomo libero. Lui partecipa nel 1919 alla negoziazione, lui rappresenta per l'Inghilterra il Ministero dell'Economia e va a Versailles a ragionare con... francesi, tedeschi, eccetera, eccetera, per il discorso di stendere un trattato che avesse senso. E si rende conto che questo non sta avvenendo. Lui dice: state attenti, perché se queste sono le sanzioni che andrete a applicare alla Germania, la guerra non finisce. E dà le dimissioni nel 1919 da questo incarico. E quindi aveva visto giusto, perché poi sappiamo che le sanzioni furono talmente massicce e dolorose che poi le cose diventarono insostenibili in Germania con tutto quello che ne consegue. E lui rappresenta l'Inghilterra anche a Bretton Woods, quindi lui è una specie di Zelig della storia o della storia economica. E lui si batte, forse perché aveva diciamo una sensibilità sociale un po' diversa da quella degli americani, per avere una banca internazionale che si occupasse di armonizzare lo sviluppo. E mentre l'anima americana di Dexter White era l'anima di dire: noi creiamo una banca che presti soldi, si faccia pagare gli interessi, che abbia sì finalità internazionali, ma più di controllo della moneta, più di diciamo regolazione dei flussi e sostanzialmente che faccia gli interessi degli Stati Uniti. Per cui da questo scontro, confronto fra i due, nascono la Banca Mondiale, che era più della parrocchia di Keynes, e il Fondo Monetario Internazionale, che era più della parrocchia di Dexter White. Quindi alla fine quello che voglio dire è che le persone riescono a fare o riuscivano a fare un'importante differenza, perché una differenza proprio di tipo filosofico, di tipo ideologico tra gli uni e gli altri, e hanno dovuto poi fare 50-50 e sono nate queste due istituzioni. Lasciamo perdere tutto quello che si può dire sull'una e sull'altra, Fondo Monetario e Banca Mondiale, tutte le deviazioni possibili e immaginabili. La struttura dell'una e dell'altra sono quasi copia carbone, nel senso che ci sono nella Banca Mondiale 189 paesi che ci partecipano e, se non vado errato, il Fondo Monetario sono 190. Quindi è molto, molto simile la struttura, con gli americani che fanno la parte del leone col 15%, e poi il secondo maggiore azionista è il Giappone col 7%, e credo il Fondo Monetario la stessa roba. Il Fondo Monetario Internazionale sono 17 gli Stati Uniti, 6 il Giappone, e poi tutti gli altri a scendere. Quindi queste istituzioni nel tempo è chiaro che hanno stabilito un ordine mondiale molto, molto preciso che, come avevamo già discusso credo due volte fa, viene interrotto nel 1971 quando Nixon decide di sciogliere il legame delle monete con l'oro e quindi di togliere il gold standard e mettere il dollar standard, che crea le premesse sostanzialmente per un'espansione del debito. Faccio un passo indietro. Keynes è ricordato, anche lì è una cosa particolare, lui scrive nel 1936 Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, dove lui dice sostanzialmente che per il bene sociale il governo può intervenire facendo stampare moneta a regolare gli alti e bassi dell'economia. Quindi è per lo sviluppo, per la pace sociale, è ammissibile avere un deficit di bilancio. Quindi la famosa G di governo, come scriveva lui, serve per compensare, armonizzare. Quindi per la prima volta si parla di questa storia. Lui, secondo passo indietro, viene ascoltato dagli americani, ma solo tardi, perché lui era stato buon profeta anche sul discorso del New Deal di Roosevelt. Aveva detto, ragazzi, in determinate circostanze si deve salvare l'economia, si deve stampare moneta, cosa che non è stata fatta e c'è fu la Grande Depressione che durò e via dicendo. Quindi diciamo che era sul pezzo, che aveva capito le conseguenze possibili di certe decisioni. Torniamo a noi, torniamo al 71, l'America quindi impegnata nella guerra nel Vietnam, cominciava a tornare a non avere più un bilancio commerciale in attivo, ma cominciava ad avere un grande deficit e quindi liberi tutti, si stampa moneta, si stampano dollari. E qui cominciamo ad arrivare poi a tutto quello di cui abbiamo trattato precedentemente, quindi il neoliberismo. Il neoliberismo sostanzialmente, se vogliamo, ha le sue radici in questi momenti, il momento in cui l'America perde non solo un'egemonia, diciamo, internazionale dal punto di vista economico, ma perde anche proprio la sua funzione di fornitore di liquidità. L'America diventa un assorbitore di liquidità. Come dicevamo, l'America stampa debito, il mondo compra debito, il debito americano diventa riserva valutaria degli altri paesi e quindi si chiude un circolo vizioso che però si spaccia per circolo virtuoso. Ce ne sono tanti. Marco diceva il discorso delle sovrastrutture, molte cose sono state vendute, molti fatti sono stati venduti come sovrastrutturali, ma non lo erano, sono profondamente strutturali. Quindi come vi racconto un'altra cosa che mi ha colpito, cercando di Marco diceva a un certo punto la politica e l'economia, no, sono andate ognuno per conto proprio e poi nella realtà forse non sono sempre andate dalla stessa parte, ma per darvi un'idea di questa commistione, di come è difficilissimo, è come quando cerchi di dare una bastonata al cane che sta morsicando il tuo, finisci per dare una randellata in testa al tuo di cane e qui non sai mai da che parte veramente stanno le cose. Allora, 2008, grande crisi che sappiamo, no? E fondamentalmente i bilanci, un po' di tutti, assicurazioni, banche, istituti finanziari, sono pieni di porcheria, sono pieni di titoli inesigibili, sono pieni di mutui ipotecari illiquidi perché non onorati a livello di rate, eccetera. Per cui bisogna fare piazza pulita. Il segretario del Tesoro americano di allora si chiamava Timothy Geithner ed era un personaggio di altissimo livello, uno che ha studiato nelle migliori scuole, i migliori college, poi ha studiato a Pechino, cioè personaggione, ma a chi chiede aiuto per dipanare la matassa? Chiede aiuto a Larry Fink. E uno dice, chi era costui? Larry Fink è il numero uno di BlackRock. BlackRock è il più grande gestore di attivi finanziari del mondo. Ha sotto la sua egida 10 trilioni di dollari, quindi l'equivalente di metà del PIL americano. Quindi Larry Fink gli dà una mano, allora non era ancora così grande, la BlackRock, e sistemano le cose. Allora uno dice, dov'è uno e dov'è l'altro? Quali sono le parti in commedia? C'è una parte e una controparte? No. Geithner prende il migliore specialista che lui conosceva nel settore di disporre di attivi ammalorati. Larry Fink è la persona giusta, probabilmente tecnicamente sì, crea un precedente di una connessione fortissima tra il capitale privato, il capitale pubblico, il bene privato, certamente. Per cui BlackRock, nel momento in cui c'è stata la visita a Zelensky di Biden, era la persona che accompagnava una delle persone che accompagnava Joe Biden. Business is business, dice, c'è da ricostruire un paese, io ho 10 trilioni di dollari, forse in qualche modo riusciamo a metterci d'accordo. Quindi tirare una riga, partita doppia, dice, chi è in dare e chi è in avere, difficilissimo. Per darvi un'idea, allora, la Banca d'Italia, perché questo è divertente, allora, la Banca d'Italia è posseduta da tantissimi istituti finanziari Banca Intesa, facciamo un passo indietro, Banca Intesa possiede il 17% della Banca d'Italia. A sua volta Banca Intesa è posseduta da Compagnia di San Paolo per il 6,5%, la Fondazione Cariblo per il 5,25% e da BlackRock per il 5%. Allora, qua a pensar male si fa peccato, però è vero che è una catena lunga, ma il terzo azionista della banca più grossa che c'è e che ha la in Italia e che ha la partecipazione più grande dentro Banca Italia è BlackRock. Quindi ma non è che BlackRock si dedichi alla Banca d'Italia o a Banca Intesa in modo specifico, sono stati o sono i principali azionisti di JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank, Apple, McDonald's, Nestlé, ExxonMobil, Shell, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris, ING olandese. Sono investimenti di portafoglio, però qualcosa succede, insomma, no? Un'altra cosa che volevo dirvi, io vado un po' a braccio e un po' da una parte e dall'altra. Allora, è il cui prodest, no? Fino a una quindicina d'anni fa, o vent'anni fa, era di moda ragionare su quelli che venivano chiamati stakeholder, piuttosto che stockholder o shareholders. Quindi stake vuol dire avere una parte del gioco, quindi se ho la Volkswagen a Forsburg, probabilmente il fiume, tutte le, diciamo, i beni comuni, il traffico, gli alloggi, eccetera, tutti coloro che hanno a che vedere con questo hanno una stake, hanno una parte del gioco. E quindi io comunque, come impresa, devo rispondere agli stakeholders, oltre che agli shareholders, stockholders, eccetera, eccetera. Quindi un fatto civile, un fatto di responsabilità allargata. Quindi le famose esternalità eccetera, eccetera, uno fa fronte a queste esternalità in modo dignitoso e responsabile. Bene, di questi stakeholders se ne parla più per così, forse per riempirsi la bocca o lavarsi la coscienza. Oggi è il mondo degli stockholders, degli azionisti. Allora, recentemente negli Stati Uniti, questa è una storia interessantissima, almeno per me, è fallita una società, ma grandissima, che non mi viene in mente di come era di Vani e Sofà, che si chiamava Bed Bath & Beyond, cioè quindi tutto quello che devi comprare per la tua stanza da letto, per il bagno e per l'arredo. Questa società che ha negozi da tutte le parti. Loro cosa fanno? Cominciano a entrare, siccome è una storia di successo, tutta una serie di azionisti molto esigenti. Quindi, cosa vogliono questi azionisti? Fornire prodotti migliori, aprire nuovi posti di vendita, punti di vendita, eccetera. Sì, anche, ma tutto deve tornare, e deve tornare a profitti. E deve tornare a profitti non fra 5 anni, profitti trimestre per trimestre. Bene, e i gestori, l'amministratore delegato, direttore generale, eccetera, come vengono compensati? Vengono compensati in un modo che sia coerente con quello che vogliono gli azionisti. Quindi, il prezzo dell'azione in borsa, cash flow, creare e generare ricchezza, generare flussi di denaro. Allora, nel momento in cui tu hai, non so, 1 milione di azioni in circolazione, uno dei modi che tu hai per avere un valore per azione più alto è diminuire il denominatore e quindi diminuire il numero di azioni circolanti. Come puoi farlo? Col cash flow dell'azienda, se genera cash flow, e indebitandomi. L'azienda si indebita per comprare le proprie azioni per ridurre il numero di azioni circolanti. Quindi le azioni da 1 milione diventano, non so, 500.000. Quindi se io faccio tot di utile, lo divido per 500.000, non più per 1 milione. Oh, che bello! In più, sulle plusvalenze, se la mia azione passa per questa ragione da $10 a $15, io sono tassato in questi $5 di teorica plusvalenza molto meno che se distribuissi dividendi. Per cui, più bello di così, quindi faccio di tutto, l'azienda che me frega, e in sostanza la strizzo come un limone, e però gli azionisti sono contenti, i manager portano a casa una quantità di quattrini mai vista e tutto finisce bene. No, qui è finito tutto male. È finito tutto male perché l'azienda si è piantata per mancanza di risorse, perché le risorse erano finite a comprare le proprie azioni, i tassi di interesse del debito sono andati su e questi si sono trovati dentro una palude dalla quale non sono riusciti a uscire e sono andati in amministrazione controllata. Allora, qual è la morale, se ce n'è una, o la amorale di tutto questo? Che il ragionamento è sempre lo stesso. Il ragionamento non è un ragionamento di tipo filosofico allargato, è un ragionamento di avidità di breve momento, di breve periodo. E questo è, diciamo, il modus operandi della situazione oggi. Il buon Piketty parla di super dirigenti ci arriva anche quell'altro che ha scritto La grande livellatrice, Scheidel. Loro dicono una cosa sostanzialmente: io ho un mondo, come dicevamo prima, con la concentrazione di ricchezza nelle mani degli stessi, non meritocratico o non abbastanza meritocratico, però ho dei simboli che sono questi super dirigenti che io remunero in una maniera pazzesca per dimostrare che, vedi, se tu sei bravo, sei capace, eccetera, questo è, come diceva Rocky Balboa nel film, Land of Opportunity. Anch'io sono nessuno, però posso arrivare là. Nella realtà tutto questo non è valore aggiunto. I manager, esistono questi comitati che si chiamano compensation committees, in cui fondamentalmente i manager decidono delle loro paghe, dei loro emolumenti. E quindi si trovano, questo è un altro grossissimo problema, sono tutta gente, gli interni e gli esterni, che sono andati alle stesse scuole. È una specie di casta, per cui se io sono amministratore delegato e chiamo a fare consigliere delegato, e propongo la candidatura di quelli che io conosco, che so che non mi tradiranno. Il collegio sindacale è la stessa roba, quindi nel momento in cui tu sei nel mio consiglio di amministrazione, io verrò nel tuo o verrò nel tuo collegio sindacale. Quindi questa commistione porta al fatto che in sostanza questi si autoremunerano. E sono andati, gente seria, è andata a vedere se in effetti questi avessero delle capacità, delle competenze così straordinarie per arrivare a queste cifre pazzesche. Non sono riuscito a trovare un collegamento fra remunerazione e competenza. Però, competenza tecnica, hanno trovato qualcosa come competenza relazionale. Questi sono il club dei vecchi ragazzi. Questi si conoscono tutti, la loro capacità di fare rete e quindi di avere, come si diceva una volta, il Rolodex con tutti gli indirizzi a cui poter telefonare, eccetera, eccetera, conta di più, perché in sostanza cane non mangia cane e quindi è una società di mutuo soccorso, di autoprotezione. Quindi la meritocrazia nemmeno a questi livelli è da trovare. Un'altra cosa che e arriviamo poi all'uomo indebitato, una cosa che mi ha colpito moltissimo, sono due cose che mi hanno colpito recentemente. La prima, le compagnie aeree americane continuano a cancellare voli. E uno dice, ma come mai il carburante costa troppo, la gente non va? No, non trovano i piloti. La guerra è finita, per cui i piloti che vi arrivavano dal Vietnam ne arrivavano a caterve e andavano nell'aviazione civile. La guerra di quel tipo lì non se ne fanno più. Il problema è che i piloti, per arrivare ad avere un brevetto di pilota commerciale, uno studente si deve indebitare per fino a un livello di circa $200,000. E i piloti non ci sono perché gli studenti che possono indebitarsi, perché questa è la storia, a questi livelli non ci sono. Quindi i militari non forniscono più i piloti, le scuole sono costosissime. L'altra cosa che mi ha colpito sempre dello stesso genere è la protesta che c'è stata degli studenti americani. Non so se l'avete vista, sono studenti di college, i quali per la maggior parte lavorano all'interno delle istituzioni universitarie e hanno protestato perché gli stipendi, i salari, i compensi che loro ricevono dall'università non permettono loro di poter avere alloggio. Quindi ci sono studenti, ma non sto parlando dell'università dell'Iowa spersa, no, stiamo parlando di Harvard, stiamo parlando dell'MIT, stiamo parlando di Yale, stiamo parlando di il massimo possibile. E quindi questi, molti di loro, una parte di loro, vivono in tenda, vivono in auto, e questi dovrebbero diventare professori, manager, eccetera. Bene, sono andato a fare una ricerchina su quelli che chiamano endowment funds, fondi di dotazione delle università. Ci sono 800 università negli Stati Uniti che hanno questi fondi di dotazione, che vanno da un minimo di $10 milioni fino a Harvard, che ne ha quasi 60. 60 miliardi sono due finanziarie italiane. Quindi questo fondo di dotazione cresce mediamente per questi, Harvard, Yale, eccetera, del 10% all'anno negli ultimi 40 anni. Io avevo delle vecchie statistiche, sono andato ad aggiornarle 15 anni dopo, il fondo era raddoppiato con oltre che il doppio, no? Quindi io, è, se vogliamo, un parallelo con quello che è questa non distribuzione che sta avvenendo non solo evidentemente nei fondi di dotazione delle università, ma in tutta l'economia. Quindi il ragionamento al quale voglio tendere è che evidentemente nel momento in cui il capitale si concentra così fortemente nelle mani di pochissimi, non ce n'è più per gli altri, non ce n'è più per nessuno. Ecco, arriviamo all'uomo indebitato. C'è stata una sostituzione potentissima. I diritti di una volta sono diventati i debiti di oggi. Quindi il famoso discorso tutti proprietari, tutti imprenditori. Il nostro amico qua Lazzarato dice una cosa che mi ha molto impressionato. Lui ha detto una volta si chiamava proletarizzazione, oggi si chiama precarizzazione. E quindi il ragionamento brutale è questo qui. Nel momento in cui io i profitti ai quali io ho abituato, la crescita di profitto ai quali io ho abituato i miei azionisti, non riesco più a sostenerla, vado per sottrazione e quindi devo portare via qualcosa in modo tale da sostenere la crescita dei profitti, perché diciamo profitti a livello fisiologico di quella natura lì, una crescita di profitti di quel genere lì non c'è e quindi vado a portar via a qualcun altro, e sappiamo evidentemente come cittadini a cosa mi riferisco, e quindi io che sono l'istituzione, che sono questo specie di grande leviatano composto da pubblico, privato, una commissione dei due, eccetera, eccetera, ti ho portato via tutto e però ti amministro attraverso il debito. Se vi ricordate quello che ha detto Novelli l'altra volta, lui diceva ma perché incrementare i salari? Poi una volta che io incremento i salari, tu sei un uomo libero, spendi o non spendi, risparmi o non risparmi, ma sono fatti tuoi. Nel momento in cui io ti do un finanziamento, un prestito, alla fine coi tassi di interesse io ti governo, perché evidentemente abbassandoli o alzandoli cambio la tua vita. In più, oltre che questa variabile evidente, c'è un altro discorso che Lazzarato, che mi avete consigliato di leggere, che ho letto scrupolosamente, sottolinea molto bene. Tu diventi valutabile, diventi un soggetto che si deve conformare. E quindi lui cita il Mercante di Venezia, in cui Shylock dice un brav'uomo è un uomo che paga i suoi debiti. Quindi l'intervento del debito serve a farti sentire, perché da una parte tu depauperi attraverso chiaramente precarizzazioni e quant'altro, depauperi il soggetto economico, l'homo economicus di cui facevamo menzione. Ma dall'altra parte tu uccidi il consumatore, per cui dici ma come faccio se io abbasso gli stipendi, precarizzo tutto, eccetera eccetera, però io ho bisogno dei consumatori e il consumatore diventa un consumatore a debito, il quale evidentemente, perché deve rispondere del debito, si deve comportare in un certo modo, perché io ti valuto, tu il famoso rating. Per cui vai da una banca e dici mi dispiace, il rating della sua azienda non è sufficiente. Ma il rating si applica anche agli individui. Hai un lavoro o non hai un lavoro, sei precario o non sei precario, cosa fai, quanti immobili hai, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire che l'uomo indebitato, homo oberatus o homo debitor, a seconda di come lo vogliamo vedere o chiamare, deve rispondere. Quindi deve fare non tanto fornire lavoro, ma come dice Lazzarato, lavoro su di sé. Lui deve rendersi affidabile, deve rendersi pubblicamente capace, deve dimostrare la sua capacità di essere un uomo che paga i propri debiti. Lui menziona anche, per chi sa il tedesco, il discorso di Schuld, che è colpa, errore, colpa, e Schulden, che sono i debiti. Quindi non solo ti ho portato via tutto, non solo ti faccio indebitare, ma in più ti faccio sentire in colpa se tu non rispetti gli impegni che hai preso con me. Quindi a quel punto diventa debito esistenziale, diventa debito soggettivo, ti entra dentro, entra nei comportamenti, entra nelle scelte che fai, entra nelle decisioni che prendi, nella famiglia che ti costruisci o non ti costruisci, in come consumi e cosa consumi. Quindi l'homo economicus, il divano, la storia del divano, no? Che la gente deve alzarsi da sto divano, no? Perché se no gli danno una miseria, una mancia. Ma mi viene in mente divano perché avevo letto la storia di poltrone e sofà. Della colpevolizzazione, no? Quindi l'homo economicus. Allora, l'homo economicus evidentemente nasce tantissimo, tantissimo tempo fa, ma il primo che se ne occupa, diciamo, a livello di modellistica è Adam Smith, ricchezza delle nazioni, eccetera, eccetera. Che poi sono tutte date coincidenti, perché esce nel 1776, che è l'anno della dichiarazione americana, eccetera, eccetera. Ma, e quindi è divertente perché si creano questi miti. L'homo economicus è uno dei miti, per cui in sostanza è un uomo modellato su un single di inglese bianco con una certa attività e via dicendo, e quindi le sue propensioni all'acquisto, al consumo, al risparmio, all'attività economica sono standardizzate, diventano parte di un modello. E a quel punto si impone, andando indietro alla ricchezza delle nazioni, il modello dello scambio. Cioè, noi nasciamo come esseri scambianti. Allora, io ti do due bicchieri, tu mi dai un pelo di capra, eccetera, eccetera. Questa è un'invenzione che uno stenta a digerire. In effetti, non è mai stato così. C'è sempre stata una moneta di riferimento sulla quale si dicesse, per la quale si dicesse due bicchieri valgono 5 e il pelo vale 7. Però si è creata, per semplificare, questo homo economicus razionale, per cui tutto viene modellizzato e si possono prevedere i comportamenti. Quindi l'homo economicus poi si trasferisce anche nella propensione al rischio, quando si parla di borsa. Quindi come reagisce il nostro uomo diventato non più solo economicus ma anche finanziarius davanti a quante unità di rischio per ogni quantità di ritorno affronta e perché e per come. E quindi siamo arrivati a creare un'altra volta un fantasma, un pensiero magico, come diceva Flavio prima, ma che non ha a che vedere molto con la realtà. La realtà è, lo dice adesso non so se Foucault, Deleuze o cose del genere, il mondo nasce non più con uno scambio, ma con un rapporto di debito e credito. C'è un differenziale di potenza da qualche parte. Per cui Graeber dice una cosa interessante, lui dice il rapporto di debito e credito avviene quando due persone che sono uguali decidono di non esserlo più e di ritornare uguali quando il debito verrà estinto. Quindi da lì andiamo a vedere poi tutto quello che ne consegue, le trattande da cui siamo partiti, il rischio antropologico dell'homo economicus e poi dopo capitalisti senza capitale e tu sei tecnologico, e finanzieri senza soldi. Però facciamo una pausa veloce, io dicevo, siccome come si dice oggi ci ha fatto una narrazione, no, anche lui di tutta questa storia, se però qualcuno voleva fare qualche domanda, una spiegazione, una richiesta di approfondimento, una cosa che dice mai, magari in un'altra puntata varrebbe la pena di suicidarsi anche, anche, e quindi può venire qui, può fare alzare la mano, venire qua insomma e chiedere qualcosa, via, perché mi rendo conto che insomma la prolusione è stata è piena di possibilità di domande. Allora vado avanti, così finiamo prima e potete rilassarvi definitivamente. Capitalisti senza capitali e finanzieri e finanziari senza soldi. E questo è, diciamo, il traguardo, no? E abbiamo parlato di Ricucci che diceva, no? Che fare il frocio con il culo degli altri è la cosa più bella del mondo, no? Sono tutti bravi a farlo. Volgare, però sostanzialmente il concetto è lo stesso. In termini più aulici, capitalista che diventa rentier, fondamentalmente la prima cosa che cerca di fare è fare soldi, coi soldi o comunque lasciare che i soldi facciano soldi per lui. Quindi non è tanto è l'esempio di un capitalista che fa soldi magari coi propri soldi, ma che ormai hanno prodotto e riprodotto, quindi sostanzialmente fa gestore degli utili che lui ha accumulato. Poi ci sono un sacco di altri capitalisti senza soldi. Abbiamo parlato di Fink, ma di tutti i grandi player, da Goldman Sachs, eccetera. Il loro mestiere è quello lì. E non è tanto capitalisti senza capitale proprio. Perché questi sono dei fenomeni, ma coi soldi degli altri. Quindi c'è gente sufficientemente in età matura per ricordarsi di Cuccia e Mediobanca. Qual era la funzione di Cuccia? Cuccia ha permesso a capitalisti di essere ricchi in privato e strapenati nelle aziende di continuare ad avere controllo. Pirelli, la Fiat, le generali. In sostanza, lui ha consentito, chiaramente aveva il suo ritorno, al fatto, perché sapeva tutto di tutti e tutti gli dovevano, a questi capitalisti di grande nomea, di fondamentalmente tenere a galla le proprie aziende con i soldi dei risparmiatori. Famose azioni convertibili, azioni nascono da quello. Io ti permetto con il 3% delle azioni che sono dentro 63 matriosche che possiedono qua e là di avere il controllo. E il resto sono debiti, sono finanziamenti, sono emissioni di obbligazioni o azioni convertibili o obbligazioni convertibili o quello che sia, no? Quindi il ragionamento è le banche. Qui abbiamo Marco, noto esperto di marxismo. Marx l'aveva capito 200 anni fa, 150, 160 anni fa. Le banche sono il vigile, sono coloro che dirigono il traffico, sono quelli che orientano il flusso. Quindi il ragionamento è che nel momento in cui tu sei dentro l'alveo di una banca o di più banche, quello che ti può succedere è che gestisci un'azienda con pochissimo azionariato, pochissimo capitale, ma il resto lo mette la banca, la quale evidentemente ha un interesse a che tu continui a fare determinate cose per mantenere determinati equilibri. Quindi capitalisti senza capitale e finanzieri o finanziari a maggior ragione. Vi ho raccontato la storia del numero uno di Goldman Sachs nel 2008-2009. Goldman Sachs ha riempito i portafogli di tutti i suoi clienti di schifezze che si è tolta dal proprio bilancio. Loro vendevano e dicevano ai propri clienti di comprare. Quando hanno istituito una commissione senatoriale per fare un'indagine su Goldman Sachs, lui ha detto, il numero uno, ha dichiarato: ah, ma quando è successo questa cosa io ero nel mio chalet dove non avevo il wifi, la mia segretaria aveva il computer rotto e la stampante non aveva carta, insomma, una roba del genere. Un uomo che, il cui compenso va da 150 a 250 milioni in un anno buono di dollari. Per cui questo che doveva essere, hai capito, Master of the Universe, uno dei supereroi, sostanzialmente ha fatto le tre scimmiette davanti alla commissione senatoriale, la quale gli ha dato un'ammenda, lui ha fatto due conti e ha detto, ragazzi, un'altra commissione senatoriale, che qui noi paghiamo il 3% rispetto al 35%, alla grandissima, no? E ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ma c'è un'espressione americana che dice skin in the game, dice hai davvero, stai rischiando la tua pelle dentro questo gioco qui o no? Bisogna andare a vedere con questa gente chi ha davvero skin in the game. Non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno. La prima cosa che uno cerca di fare è allontanare rischi, allontanare diciamo partecipazione personale. Ecco il discorso da cui siamo partiti. Divento un gestore, divento un manager, divento lontano. Io ho solo la parte quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno male non è più privatizzazione del profitto, ma è chiaramente nazionalizzazione delle perdite. Quindi forse non ci siamo mai mossi da tantissimi anni da questo paradigma, ma fondamentalmente è così. E il debito pubblico, qui non c'è, ma è un ragionamento ad alta voce. Il debito pubblico, secondo voi, a chi serve? O a che cosa serve? Il debito pubblico nasce sostanzialmente con le guerre. Come dicevamo prima, la Banca d'Inghilterra finanzia le guerre dell'impero. Ecco. No, no, ma è così. È così. Quindi la banca centrale inglese nasce con lo scopo di finanziare le guerre dell'impero. Quindi loro, che gli frega? Sono azionisti privati che fanno una funzione pubblica, sì, collocano il debito dello Stato, ma sostanzialmente sono per... Il debito pubblico per loro è un impiego di capitali. Quindi, in uno Stato decente, decide qual è il concetto di ridistribuzione. Quindi attraverso politiche fiscali. L'aliquota marginale, come vi ho già detto, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nell'America era 94%. Quindi, sull'ultimo scaglione, io pagavo il 94%. Oggi l'ultimo scaglione è 32%. Quindi 94 forse era un po' punitivo, ma 32 è un terzo. Ma se io non ho un gettito che mi arriva dal fisco per mantenere il mio stato sociale, i servizi, le infrastrutture che mi servono per far funzionare il paese, cosa faccio? Faccio debito. E questo debito chi me lo finanzia? Chi ha i soldi. In Francia era sinonimo di rentier uno che deteneva titoli di Stato. Cioè era proprio un modo di dire. Quindi perché io non aumento il carico fiscale? Non da tutte le parti, sto facendo una generalizzazione evidentemente, ma perché ci sarebbe una rivolta? Guardate, gli Stati Uniti sono un esempio fantastico, no? Appena dicono bisogna tassare di più le fortune e via dicendo, allora Bernie Sanders diventa Che Guevara. No, perché... noi abbiamo una meritocrazia che si è fatto il mazzo e guadagna così tanto, è l'invidia e tutta sta roba qua. Quindi cosa faccio? Faccio debito e il signore che ha il grano compra il debito. Quindi al posto di pagare le tasse che gli porterebbero via dei soldi, investe dentro il debito pubblico e in più il debito pubblico è remunerativo, è remunerato. Quindi, homo economicus, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un modo elegante di dire il nulla. Non siamo più uomini, forse non lo siamo mai stati, però oggi come oggi tutto questo passa sulle nostre teste. Abbiamo cominciato la puntata 1 dicendo il linguaggio determina non solo la percezione ma anche la realtà delle cose. Noi continuiamo a pensare alla banca o alla finanza come un appendice, come qualcosa, come diceva Piketty, bisogna occuparsene, bisogna capire, perché in sostanza ormai siamo in un circuito in cui qualsiasi cosa si muova è questa roba qua. Poi uno dice, ma io non credo nelle grandi congiure, per carità di Dio. Però è un sistema, il capitalismo ogni volta si plasma, cioè c'è un capitalismo di Stato in Cina. Ma dove finisce il capitalismo? Non si sa. È un blob, è proteiforme, quindi assume le forme di dove arriva. Ma nel momento in cui tu non generi più valore aggiunto, arriviamo a livello aziendale, nel momento in cui tu non aggiungi più nulla, a quel punto dove trovi i profitti? La produttività dove poteva arrivare arrivata e comunque te ne sei impossessato. Crescita a livello demografico, siamo in una fase probabilmente di rientro. Quindi dove vai? Vai a appropriazione per espropriazione. Porto via. Dove trovo? Dove trovo porto via. Allora, almeno saperlo, almeno che essere consapevoli che questa è la storia, che non è dettata da quelli con la maschera che si radunano nelle segrete, ma è una necessità ontologica del capitale. Oggi come oggi è questo. In più con la facilità che la tecnologia dà della moltiplicazione. Ne avevamo parlato, il concetto di moltiplicazione, di scalability, come dicono gli inglesi. Quindi Bill Gates è il numero uno, lui investe nel fare un software, sempre lo stesso, e la prima copia di software gli è costata forse $500,000. Dopodiché ne ha vendute per 600 milioni di copie, l'investimento iniziale diciamo che è stato assorbito. Tant'è vero che sul DOS hanno continuato a costruire una specie di mille foglie per arrivare a un sistema operativo che in più, essendo così pesante, facilitava i produttori di hardware che dovevano continuamente rendere più potenti le macchine per assorbirsi e gestire un software inefficiente. Quindi questo discorso della moltiplicazione vuol dire che chi arriva per primo si porta via tutto il piatto, il vincitore porta via tutto. E così in qualsiasi settore industriale che abbia a vedere con tecnologia avanzata è quello che è successo. Bill Gates è, non so, 10 volte, 20 volte più ricco di Steve Jobs. E Steve Jobs, credo da ignorante, che abbia comunque avuto l'intelligenza di valersi di persone che avevano delle idee brillanti. Bill Gates è stato invece un grande massificatore, un grande moltiplicatore di quel discorso lì. Quindi in un regime di globalizzazione, di universalizzazione, oggi come oggi, il ragionamento è deve tutto funzionare così. Non ci possono più essere eccezioni, deviazioni, eccetera. Viene tutto assorbito rapidissimamente. Ve l'ho già detto l'altra volta, Google compra una società nuova alla settimana. Apple ne comprerà due al mese, tre al mese. E Facebook, non lo so, ognuno faccia i ragionamenti che vuole. Quindi in buona sostanza, l'ultimo punto era dalle cambiali alla carta di credito, cronistoria dell'uomo indebitato. Sì, l'abbiamo. Cioè, il ragionamento è lunghissimo, è complessissimo. Questo è stata una generalizzazione stringata, magari meno di quello che avreste desiderato, ma in sostanza il ragionamento che si può fare è solo questo. Poi l'Italia è un paese strano, un paese diverso. Se vi ricordate l'orribile Brunetta, prima che diventasse il nano di corte di Silvio, faceva l'economista. E non era nemmeno il più stupido di tutti. Lui aveva creato un modello in cui ragionava di settori protetti e di settori non protetti. L'Italia è, a livello di percentuale, uno dei paesi con il settore protetto, che è stato, parastato e in tutte le sue declinazioni, più potente, più pesante rispetto a tantissime economie. Quindi noi siamo in una situazione abbastanza diversa rispetto a tanti altri paesi, quindi forse la percezione che noi abbiamo è una percezione mediata da realtà, però la precarizzazione è arrivata potentemente anche qui. Se andiamo a vedere chi ci porta il cibo, chi ci porta i libri, chi ci presta determinati servizi, poi sono sempre gli stessi nomi, per cui sono nomi a livello planetario, e quindi voglio dire, dai riders a chiunque, a quelli che escono con belle speranze dalle università e non trovano lavoro, da quelli che non riescono a mantenersi in un posto decente perché non hanno la possibilità economica di farlo, scuole che anche qua, insomma, c'è un discorso vastissimo. Però comunque questi i frutti di questo grande trend li viviamo direttamente o indirettamente sulla nostra pelle. Grazie Massimo. Come dicevo prima, il microfono è aperto, nel senso che se qualcuno ha da chiedere qualcosa, da suggerire qualcosa, vieni. No, aspetta, perché se no, siccome c'è anche lo streaming. Allora, gli spunti sono veramente tanti, per cui io ne isolo uno. Se ho ben capito, questa questione del debito, alla fine uno degli aspetti è che è uno strumento anche di controllo sociale. Partiamo da una premessa, magari anche quella discutibile. Nell'arco dell'Europa mediterranea, dove c'è una certa tendenza al conflitto sociale, se guardiamo agli ultimi anni, l'Italia sta godendo di una relativa pace sociale. Relativa poi, perché non è che non succede nulla, però questa premessa può essere più vera, meno vera, però io confronto con Grecia, Spagna, Francia, vabbè, la Francia poi non ne parliamo, insomma. In che modo questa questione del debito c'entra su questa tematica di questa relativa pace sociale, posto che esista, guardando alla società italiana? Perché io ho le idee un po' confuse su questo. Cioè, nel senso che io so che questo è un paese che ha una grande tradizione di risparmio privato, però mi sembra che questo risparmio forse si stia assottigliando, oppure non abbiamo una grande tradizione di consumare a credito, però anche qui ci sono dei dati, siamo comunque un paese dove l'80-85% è proprietario di case. Quindi in che modo questa questione del debito può essere una delle chiavi di lettura rispetto a questa tematica del controllo sociale in Italia? Ovviamente i fattori che generano questo controllo sono anche tanti altri, però il debito mi sembra un punto interessante. Rilievo super, super interessante. L'Italia ha una ricchezza accumulata di circa 7 volte e in crescita il PIL, quindi l'Italia fa, non so, 2 trilioni di PIL, ha ricchezza accumulata per 14, quindi la patrimonializzazione dell'Italia è molto alta rispetto a tanti paesi. La patrimonializzazione ha avuto tutta una serie di andamenti diciamo ciclici, con soprattutto momenti di grande cambiamento nel periodo che va dall'inizio della prima guerra alla fine della seconda guerra, dove è saltato il banco, i patrimoni si sono azzerati, le riserve di ricchezza si sono abbastanza estinte, eccetera eccetera. Quindi l'Italia è un paese ad alta patrimonialità, quindi sicuramente è un paese che ricorre meno al debito, e quindi l'osservazione è assolutamente coerente. Nel momento in cui io vivo in casa, quindi non ho il mutuo da pagare, nel momento in cui ho 4 soldi messi da parte, eccetera eccetera, non siamo ancora forse una società di consumisti, siamo, diciamo, la nostra vetustà culturale in qualche modo aiuta, filtra, però diciamo che questo discorso, che è chiaro che tutti i modelli economici si fondano su un sistema che è quello americano, che è il più lampante, il più evidente, quello dove evidentemente hai più statistiche. In America ci sono statistiche di ogni genere e specie. È chiaro che quello è un sistema che dal quale fondamentalmente, cioè, guardi l'orrido, no? Quindi guardi gli Stati Uniti e dici: ecco, magari non vorrei finire così. Però noi cominciamo a vedere, secondo me, un po' apparire questo fantasma di essere debitori. Poi abbiamo un sistema bancario che è molto conservatore, molto conservativo nelle politiche che fa, quindi che applica. Per cui le banche nostre sono, ripeto, con le eccezioni, non perdono i soldi sul debito del privato, il debito minuto, il retail. Loro, quando lo perdono perché hanno investito un sacco di soldi nelle imprese sciagurate degli amici, dei capitani coraggiosi, quella roba lì. Ma a livello di finanziamento del debito minuto, del debito retail, anche quello le banche sono abbastanza prudenti. Diciamo che nel momento in cui noi percepiamo delle similitudini con quello che vediamo in altri paesi proprio leader dal punto di vista di questo ragionamento sul debito, sono gli Stati Uniti e il Regno Unito. Io avevo degli amici in Inghilterra, sono andato a trovarne uno, io ero giovane, e mi sono stupito della quantità di cose che lui aveva. Tutto bellissimo, grandissimo, eccetera eccetera. Non c'era una cosa che non fosse a debito, dall'automobile al divano, alla televisione, all'impianto stereo, qualsiasi cosa. Allora, è vero, hanno fiducia del futuro e quindi crediamo che le cose saranno le famose magnifiche sorti progressive. Noi abbiamo già visto che le magnifiche sorti progressive sono abbastanza latitanti, e quindi viviamo molto più facendo il passo secondo la lunghezza della gamba. Però diciamo il pericolo è comunque, ritorno a Brunetta, mamma mia, se è vero quello che diceva lui, cioè che tu hai un settore protetto e un settore non protetto, questo settore protetto è un settore che depaupera, è un succhiatore, è un netto prenditore di risorse, di ricchezza. Quindi, che poi non è una ricchezza per la maggior parte che crea ricchezza, è una ricchezza che viene consumata e distrutta. Se questo concetto è vero, c'è un paese che non è protetto, il quale non ha santi in paradiso, il quale si trova davanti a un depauperamento di risorse, e in qualche modo bisogna tenere testa a questa crisi e quindi indebitarsi per riuscire a campare. Discorso di prima, chi ha la potenza economica si indebita per investire, chi non ha la potenza economica si indebita per sopravvivere. Quindi, al di là delle nostre peculiarità socioculturali, c'è proprio un discorso che siamo arrivati a tavola e il resto sono rimasti i resti, ma il grosso se n'è andato. Quando arrivano i paesi, diciamo, emergenti, che dicono: ma anche noi vogliamo uno stile di vita così. Però dice: sai, quella roba lì ce la siamo già fatta fuori noi, quella roba là è rimasta poca. Cioè, gli Stati Uniti consumano 2,5 volte pro capite l'energia che consumiamo noi. Allora, è vero, un paese grande, è vero che fa caldo per cui devi raffreddarlo, è vero che fa freddo e ti devi riscaldare, è vero tutto, ma 2,5 volte significa che c'è un consumo del pianeta, è quello che credo, sì, non so se Deleuze chiamava l'antiproduzione. Cioè, io produco cose ma produco inquinamento, produco cultura ma produco massificazione culturale e produco stupidità, cioè faccio investimenti che portano più che altro a facilitarmi il controllo. Quindi, in qualche modo, se ne sono già andati col bottino, è rimasta la cassaforte aperta e tu stai a cercare gli spiccioli. Nel momento in cui la riserva patrimoniale, anche lì bisogna andare a vedere come è distribuita, perché se la riserva patrimoniale, la patrimonialità è un fattore di vertice, un fattore apicale, per cui c'è una grandissima concentrazione di patrimoni in poche mani, questa patrimonialità non mi serve, non mi aiuta, non aiuta il paese, perché non è una risorsa distribuita. Ecco, nel momento in cui, ammettendo che la nostra patrimonialità sia più diffusa, o sia sufficientemente diffusa, nel momento in cui questa cessa, o comunque si erode, e quando leggiamo tutti il nonno che mette la pensione a disposizione per integrare, cioè il Censis 30 anni fa parlava di redditi frazionali che compongono il reddito familiare per riuscire a far sì che le famiglie tirassero avanti, quindi la pensione del nonno, la nonna che fa gli gnocchi e fa la babysitter, lo zio che è grande invalido, eccetera, eccetera. Quindi uno che lavora, uno che c'ha la, non so, e alla fine metto insieme queste frazioni e la famiglia sta in piedi. Ecco, però eravamo già 30 e rotti anni fa così, il rapporto Censis non è di ieri. Lui, quando parlava di economia dei cespugli, quindi di piccole realtà che riescono a sopravvivere grazie a delle economie inimmaginabili da un punto di vista di pianificazione, tutto spontaneo, tutto frutto di grande creatività e di grande spirito di adattamento. Diciamo che se già 30 anni fa o 35 anni fa ci si poneva il problema di come stare a galla, oggi come oggi non credo che le cose siano molto migliorate da 30 anni a questa parte. I discorsi sono sempre gli stessi, cioè gli studenti che scendono in piazza perché non hanno i soldi per pagare gli affitti. Succede negli Stati Uniti come succede a Milano. Poi quello che ti veramente ti rende rabbioso come concetto è che, non so, succedesse l'equivalente di Harvard, potrebbe essere la Bocconi. Harvard ha 60 miliardi di fondi per sì, borse di studio, laboratori, eccetera, eccetera, finanziare le ricerche, per carità di Dio, ma sono 60 miliardi di... Vuoi pagare i tuoi studenti in un modo decente, ma devi proprio... Cioè, deve essere sempre comunque un gioco a somma zero, punto di domanda. Ma perché? Ma perché? Il vincitore prende tutto e in più ti deve uccidere. Non c'è nemmeno l'onore delle armi. Cioè, proprio una volta che sei vinto, sei morto. Non lo so. No, però, siccome dentro la domanda c'era una questione con la parola conflittualità, no? E allora vale la pena tentare una risposta. Allora, in questo paese... Al momento vediamo proprio delle zone specifiche, però non a caso che siano anche molto importanti, e tanto credo che tutti lo sanno, parliamo delle lotte che si svolgono nella logistica. Queste lotte che si svolgono hanno però una base di partenza che sono lotte, nella stragrande maggioranza dei casi, che chiedono che gli venga applicato i contratti che sono già in vigore, che sono già legge. Quindi si parte da una richiesta la più normale possibile. Tutto questo dà adito a tutta una serie di conflittualità, scontri duri, picchetti, scioperi, eccetera, eccetera, però si parte da questa questione. Quindi di praticamente applicare la legge. Poi c'è tutto l'altro mondo, sto parlando del mondo del lavoro, per esempio il pubblico impiego, dove nella stragrande maggioranza dei casi ci sono anche paghe basse, ma però il posto di lavoro è quasi intoccabile. C'è poi tutta un'altra questione riguardo invece le imprese, o quel poco che rimane in questo paese, delle imprese private. Su questo piano, anche lì tutto dorme, non so come dire, anche se addirittura ci sono categorie che aspettano da 3 anni, da 4 anni, da 5 anni. Quindi è indubbio, e mi sposto leggermente, poi ci comunicano, ci propinano statistiche dove qua ci sono 4 milioni di poveri, la più alta percentuale di disoccupazione, insomma un mare di dati che uno, dopo averli letti, dovrebbe avere quasi paura di uscire di casa, che non ti mordono, no? Perché dice, cazzo, tutti disoccupati, eccetera, eccetera. E allora c'è un po' tutto il mistero di questo paese, no? Insomma, pensate, adesso dico per capirsi, non so, quando si parla dei balneari, cioè adesso questo è un paese dove il bagnino, il balneare, come viene chiamato, praticamente la successione, ce l'hanno come le dinastie monarchiche, di una volta la ripassa di padre in figlio, vanno avanti da anni e anni e anni. Io mi ricordo che mille anni fa, nel senso che c'era il governo Prodi, con partecipazione Rifondazione Comunista, quindi Bertinotti e compagni, e questa questione dei balneari venne già suscitata, e tra i principali oppositori fu proprio quelli di Rifondazione Comunista, perché dentro tutta una serie di aree emiliano-romagnole, toscane, avevano un certo bacino di elettori. Ecco, quindi questo è un paese complicatissimo da questo punto di vista. E la conflittualità non la si inventa, voglio dire, ecco. Vero, vero. Infatti, e poi finisco, se pensate, un'altra questione, questa ancora proprio molto più vasta, che dovrebbe interessare ancora di più, perché il minestrone che stanno preparando a livello mondiale non è qualche cosa di bello, mi riferisco alla guerra, anche questa è un'altra questione che ben poco interessa. Il Napoli ha vinto lo scudetto. Ubi Maior, come dicevi tu. No, ma quello che dice lui è assolutamente giusto. Il problema è che se tu tiri una bomba contro un gruppo di antagonisti che tu vedi come antagonisti, devi stare attento a non prendere a tuo cugino, perché in sostanza è quello, c'è cioè una tale commistione di interessi che non sai mai, dice no, ma ho tirato una pietra in testa, ma quello lì è quel celerino lì, è sta con la cognata di quello lì, e quello lì dice no, ma perché quelli sono dei ladri, sì, però sai, dentro la commissione c'è mio zio che in fondo è una brava persona. Chi? Siamo tutti... Faccio un'ultima considerazione, perché sono stati citati paesi dove si parla di alta conflittualità. Francia, abbiamo visto recentemente, mica tutti erano là a guardare la TV, gli scontri, eccetera, eccetera, eccetera. E attenzione però che la questione, a parte che sono molto più indietro rispetto a quello che è già successo in Italia per quanto riguarda l'età pensionistica, no? Comunque tutte le milioni di persone che hanno manifestato, eccetera, eccetera, rappresentano comunque dei privilegiati. Non a caso tutti quegli altri, cioè precari, quelli che non so, che avevano visto per anni fa, e ancora oggi ci sono tutti questi quartieri, tipo le banlieue, non erano in grande partecipazione a queste cose, perché quelli non c'hanno un cazzo gliene frega della pensione di quello là, detta molto semplicemente. Ma è una conflittualità anche quella lì, sì, scenografica, non so come dire, ma alla fine che cosa volevano mettere in dubbio? Ma perché non c'è un disegno politico dietro, c'è sostanzialmente una difesa dei propri interessi, chiamano, cioè, i privilegi. Quindi non facciamoci abbagliare da quattro negozi bruciati, due molotov e queste robe qui e milioni, di ben altro c'è bisogno. La guerra civile è un'altra cosa. Ci sono persone non facciamo confusione. Molto gravi. E sul primo maggio, un po' per come l'ho visto io, c'è la popolazione, grandi e piccini, c'è proprio su quel famoso slogan, tutto il mondo in testa alla polizia, sì, cioè, è stato forte non solo a Parigi, ma in varie altre città. Lorena, Toulouse, Marsiglia, Nantes, in un casino di città proprio la gente da che punto di vista rispetto a quello che è il discorso Italia, c'è rispetto a quello che è il discorso un po' lo stato assistenziale là, cioè i servizi, questi ha lavorato, ha pagato le tasse, tu dici ma che cazzo vuoi, mi viene a curare di nuovi soldi, e là la gente si ribella, cosa che non succede in Italia su qualsiasi cosa rispetto a come si diceva prima sul campo dei diritti, no? Vieni qua. No, volevo chiedere una cosa, cioè in tutto questo casino, scusate l'espressione poco brillante, che fine fa il capitale produttivo? L'accumulazione di capitale, quello che è, diciamo, il fondamento del sistema, del modo di produzione capitalistico. No, ma penso che non è che è cambiato. Sì, per esempio, abbiamo visto cosa è successo alla GKN, no? GKN, un'industria che da un punto di vista, diciamo, del profitto andava bene, cioè ne produceva, eccetera. Il fondo Melrose, che è un fondo inglese, l'ha chiusa da un giorno all'altro, non si sa perché, non so, questa è una cosa che poi magari può essere chiarita. Dicevo, se le corporation spendono, cioè la maggior parte dei loro profitti le impiegano per acquistare le loro azioni e per aumentare il prezzo, i dividendi, eccetera, eccetera, eccetera, ne rimane poco per l'accumulazione. Infatti il saggio di accumulazione... A livello... scusati. Sì, finisco su. Il saggio di accumulazione, mentre il saggio di profitto relativamente aumenta, il saggio di accumulazione scende. A meno che non si vuole pensare che il capitale produttivo si sposta da un'altra parte, in Cina, non so. No, ma secondo... perché vai? No, no. Ho finito. No, nel senso, ma coi tempi di oggi, secondo te, ha ancora senso fare una divisione tra capitale produttivo, quindi industriale, eccetera, e capitale finanziario? Cioè, alla fine dicevi giustamente, un fondo inglese, per le sue dinamiche perverse, elimina una società che produce utili, e quindi diciamo si viene a cessare un'attività che ha una storia, che ha una tecnologia, eccetera, eccetera. Quello di cui fondamentalmente abbiamo parlato fino adesso, cioè l'accumulazione ormai, come la vedo io, è che quello che è già stato accumulato basta, avanza. Nel senso che questa enorme massa di quattrini, che è governata da pochissimi, tu mi dirai, sì, ma quali sono le opportunità di investimento se io continuo a chiudere cose che rendono dei soldi? Ma evidentemente la dinamica è una dinamica che passa sulle nostre teste, perché molto probabilmente sarà stato delocalizzato in un posto, eccetera, avrò avuto il mio interesse nel riuscire a fare determinati movimenti all'interno dell'azienda. La logica, no, Marx diceva che il capitalismo può essere rivoluzionario, no, perché rompe determinate rigidità, crea nuove cose. Oggi il capitalismo non è più rivoluzionario, è un capitalismo di tipo parassitario, no? da rentier, di rendite di posizione. Quindi non so se è una risposta, ma la prima cosa che io avevo in mente è che il processo di tipo industriale ha un grande valore. Io sono poi alla fine un ingegnere, quindi coloro che creano metodi, processi e sistemi mi ha sempre molto interessato, ma esiste ancora una roba del genere che non sia sovradeterminata dal discorso finanziario? Non esiste più un rappresentante del capitale produttivo. Se sei ingegnere, penso che... Non esiste più un rappresentante del capitale produttivo. Il padrone di una volta, chiamiamolo così, nella sua figura, aveva tutte e due le figure, no? Sia quella produttiva che quella finanziaria. Con la società per azioni questo si divide, cioè che la massima socializzazione permessa dal modo di produzione capitalistico, cioè si divide, mentre i manager eccetera sono i rappresentanti del capitale finanziario, come abbiamo visto che fanno, non c'è più nessun rappresentante del capitale produttivo non c'è più questa figura. Ci sono gli ingegneri, certo, però cosa fanno. Ma guardiamo in casa nostra, in casa... Ecco, per esempio adesso alla GKN gli operai dicono facciamo noi, ecco. Questa potrebbe essere una soluzione. Certo, fin quando è una, qui abbiamo avuto la rima flow, come che, non so se c'è, e quindi che ancora c'è peraltro, cambiato produzione eccetera. L'esempio però è l'esempio tipico, secondo me, è la crisi argentina del 2000, cioè quando c'è un default veramente generalizzato, quando il debito non viene più, non è più possibile ripagare il debito, come è successo nella crisi argentina, allora le cose sì, ci vanno ripensate. Beh, l'Islanda, che è piccolissima, però l'Islanda ha detto io non pago, e beh, uno dice sì, ma l'Islanda l'assorbo, no? Perché non me ne accorgo nemmeno, però questi qui hanno detto ragazzi, cavoli vostri, cioè ragionamento, Marco accennava alla Grecia, no? Prima, e il discorso della Grecia, torniamo a chi compra il debito pubblico, perché a cosa sono serviti i soldi? Per tirar fuori la Grecia dai guai? No, per ripagare le banche francesi e tedesche, fine del ragionamento. Quindi la domanda che mi pongo io è, nel momento in cui tu hai un capitale industriale e il tuo concorrente ha anche sopra come ombrello il capitale finanziario, secondo me le tue possibilità sono molto scarse di prevalere nel mercato, perché quello ti arriverà dove tu non puoi arrivare, perché per mille e un motivo riuscirà a fare delle cose che tu non riuscirai mai a fare, perché quello in qualche modo arriverà con soldi che gli costano meno, soldi che sono di più di quello ai quali puoi arrivare tu, eccetera. Cerchiamo di non fare un dibattito a due, non qualcun altro. Pensate solo che chiaramente non credo che si realizzerà, perché sarebbe veramente, ma entro il primo giugno, se il Senato americano non darà un beneplacito rispetto all'ampliamento ulteriore del debito, gli Stati Uniti rischiano il default. Primo giugno è qui. Certo, la questione del debito americano, al di là di chi lo sottoscriva, e se poi si potrà anche dire com'è suddiviso, ha però una qualità che nessun paese al mondo ha. Avete mai sentito qualcuno chiedere agli americani di rientrare del loro debito? Questo deriva dal fatto, allora i repubblicani si stanno mettendo di traverso perché dicono basta spese sociali, basta deficit per finanziare i programmi dell'istruzione, dell'integrazione eccetera eccetera. Nella realtà difendono i tagli fiscali che hanno fatto per le imprese e per i ricchi, fine del cinema. Le aliquote con Trump si sono precipitate, per cui bastava nascondersi dietro una società per avere una riduzione fiscale. Per cui, nella sostanza, Bernie Sanders, pericolosissimo terrorista, dice una cosa normalissima. Dice, ragazzi, voi dite che noi dobbiamo essere austeri, efficienti, risparmiare, virtuosi e cose del genere. Ma noi, è una cosa molto interessante che dice che la moneta virtuale, i debiti fatti con la moneta virtuale vengono ripagati attraverso l'utilizzo della moneta reale, quella dei salari, degli stipendi, dei programmi sociali e cose del genere. E questo è, torniamo a noi, siamo in una condizione per la quale chi difende degli interessi indifendibili ha sufficiente potere, sufficiente muscolo per andare contro l'ovvietà, contro una cosa che è davanti agli occhi di tutti. Per cui Biden potrebbe finire impagliato come uno struzzo per delle cose che i repubblicani dicono, ma facendo il contrario. Loro dichiarano una cosa, ma in sostanza ne hanno fatto già un'altra, accumulando un deficit fiscale, perché le entrate non sono quelle di prima. Quindi io su il debito americano nessuno mai chiederà che venga onorato per le mille ragioni di cui sopra, tutti sì, purtroppo non c'è un'alternativa, perché l'euro non è un'alternativa, il renminbi non è un'alternativa per il momento, però noi siamo impantanati perché l'America è chiaramente diciamo la rete sulla quale camminiamo tutti. Qualche buco c'è, bisogna stare attenti dove metti i piedi. Il ruolo della guerra? Beh, l'America è in guerra dal 1776, ininterrottamente. Per cui adesso io non so, lui è lo specialista, ma l'America è un paese in guerra. L'America destina circa il 4% del proprio PIL, o 4,5%, alle spese militari. Credo che noi siamo all'1. Noi al 2, siamo al 2 qualcosa. Cioè, credo che le forze armate tra addetti, non addetti, eccetera, siano tipo 5 milioni, una roba così. E quindi, senza parlare dei produttori di armi, Lockheed, Martin Marietta, General Dynamics e tutti questi qui. Quindi, da qualche parte la guerra devo far venire fuori, perché devo fare soldi. E quindi bombe, aerei, no, sistemi d'arma. No, la situazione è chiaramente, possiamo così da tenere sotto controllo, perché è altamente pericolosa, perché comunque a differenza del passato è saltata fuori anche così abbastanza alla leggera, si parla di nucleare nel senso di utilizzo casomai in senso bellico. Chiaramente bisogna, e anche Visconte, anche lui sta studiando questa cosa, capire però in che rapporto sta l'impiego dentro le economie dedicato alla guerra, quindi alla produzione per la guerra, che non è semplicemente solo armi, proiettili, eccetera, eccetera. E su questo piano si sta vedendo che ci sono grossi problemi. Questa guerra potrà continuare per un bel po', ma ci sono anche problemi di produzione per alimentare questa guerra. Hanno tirato fuori recentemente che hanno problema delle munizioni, hanno sparato una quantità, sono rimasti senza munizioni. Certo, ma però al momento non possiamo definire che siamo dentro un'economia di guerra, ecco. No, non solo noi, anche gli Stati Uniti. Il problema secondo me è che si preparavano per una guerra che pensavano non avesse queste caratteristiche. Invece si sono trovati davanti a una guerra d'attrito, sostanzialmente un po' l'antica, con i mezzi moderni, ma ancora una guerra. Bakhmut è ancora lì, sono ancora lì a spararsi a distanza di 10 metri l'uno cioè, dall'altro. È una battaglia anche quella che dopo un po' uno pensa quasi che non è vera, non so come dire, no? Perché cioè qui sono mesi e non si trova una... No, ma i droni ammazzano o cercano di ammazzare uno o due soldati per volta. Cioè io immaginavo che il drone arrivasse con una bomba per il carro armato, per un plotone, per una fortificazione. Questi vanno a beccare reciprocamente. Ah, dice, c'è uno che si sta muovendo là, arriva il drone, boom. Cioè, facciamo un paragone molto veloce. In questi ultimi giorni c'è continue... In questo caso forse si può usare la parola pulizia etnica da parte dello Stato di Israele contro i palestinesi. E in questo caso si utilizza una delle armi più importanti, l'aviazione. A voi vi risulta che durante questo conflitto là si utilizzi l'aviazione? È un oggetto misterioso là. È vero. Con l'aviazione però, poi al di là del fatto che gli israeliani non sono gli ultimi nell'uso di queste tecniche, ma mi sembra che si colpisce bene, hanno ammazzato un sacco di gente in breve tempo, e poi si può centrare con tutti i mezzi che ci sono. Ma i droni sono una nuova aviazione. Eh sì. E, sì, ho capito, però verissimo, verissimo, verissimo. Ma anche per rischi questi piloti tanto preziosi che ci vuole tanto. Ma di fatti no, ma è il gatto che si mangia, è il cane che si morde la coda, perché proprio perché sono diventati così preziosi, a quel punto io faccio col telecomando, li metto dentro in una scatola in Arizona e gli faccio ammazzare quello là in Afghanistan piuttosto che e poi c'è tutto il famoso rischio morale, nel senso che tu non vedi perché non partecipi, non sei lì, non senti l'odore, non senti il rumore, eccetera eccetera, per cui diventa un videogame e io comunque non muore nessuno dei miei, faccio un lavoro che sembra ripeto un gioco e arrivederci, grazie. Ma di fatto certo, in questo conflitto c'è qualche novità, perché la novità è che gli americani sono riusciti a creare attorno a sé qualcuno che svolge per loro questa guerra per procura, e sono gli ucraini in questo caso, ma però sono riusciti ad avere attorno a sé una coalizione impensabile sotto certi punti di vista. C'è da chiedersi fino a quando durerà, perché in questa coalizione, a partire dai principali paesi europei e in primo luogo la Germania, fatti i conti alla fine bisognerà vedere fino a che la Germania, la Francia, ma la stessa Italia, voglio dire, quanto convenga proseguire in questa coalizione per ottenere non si capisce bene che cosa. Il socio di quello che ricostruirà il paese. La distruzione, poi hai l'onore di partecipare certo. Alla costruzione. È per quello che io rispetto alla questione del nucleare volevo aggiungere una roba solamente, che qualche anno fa, rispetto quando c'era il movimento NOTAV in auge, c'era la freccia bianca, che sarebbe il treno ambientalista, praticamente passa, credo, da Pardonecchia, no? E quindi trasportava materiale nucleare, radioattivo, lo portava, credo, in Francia. No? E quindi volevo dire questo in termini che l'Italia, rispetto a quelle che sono state le lotte contro il nucleare, la dice lunga no, rispetto a quello che sono i nucleari, perché già da allora tutta una serie di basi, come quella di, non mi ricordo come si chiama, quella di Pisa, no? Sono state delle, come si dice, delle piattaforme, no? Rispetto a quello che poi uso un certo tipo di materiale nucleare in altri paesi, no? E quindi alla gente un treno ambientalista, no? Cioè che no, treno verde che trasporta materiale radioattivo in Italia, già questo qua si un decennio fa. Dica. Poi piano, basta. Cioè Salvia. Volevo affrontare un problema che è quello delle emissioni dei paesi emergenti negli ultimi anni di obbligazioni in dollari. Così, va bene. Le obbligazioni in dollari, paesi emergenti negli ultimi anni hanno emesso obbligazioni, quindi debito, ma in dollari. Molte multinazionali hanno emesso obbligazioni in dollari. Non è che l'America in questo momento si sta trovando sul bordo di una enorme bolla speculativa, non solo sulla valuta, il rapporto leva tra un dollaro e quanto viene elargito in prestiti, come era successo nel 2008, che su un dollaro gravavano 300 dollari, ma la quantità obbligazionaria in giro per il mondo, che è sempre debito. Ma io credo che non è sull'orlo, siamo cioè È come quello che si è buttato giù dal 60° piano, è arrivato a 5 piani, dice per adesso tutto bene. Qui siamo esattamente nella stessa condizione, nel senso che nel momento in cui la parte industriale viene a perdere di significato, perché ormai viene tutto automatizzato, monopolizzato, eccetera, non c'è che il debito, non c'è che il debito. E quindi è tutto... Il problema è il controllo del debito. Controllo non c'è. Nel momento in cui dovessimo andare veramente a fare i conti, Marco aveva messo dentro la trattanda numero uno i derivati. E ho detto, ma sta scherzando, perché i derivati stiamo qui per 6 mesi a parlarne. No, ma io... possiamo anche prima e anche dopo. Il discorso dei derivati, di cui tutti fanno finta che sia un argomento intrattabile, no? Perché dici, ah no, ma non è quantificabile, perché sono impegni bilaterali, sono impegni tra parte e controparte, per cui sono scritture, alcune sono private, sono over the counter, quindi sono transazioni dirette, non sono messe sul mercato. Per cui è un problema che nessuno vuole affrontare. Se noi dovessimo consolidare il rischio che c'è dentro nel mondo dei derivati con il rischio a cui facevi riferimento tu, andiamo tutti a spendere gli ultimi soldi nel modo più bizzarro possibile, perché il ragionamento, il vecchio Gaber diceva, far finta di essere sani è l'unica cosa che ci tiene al mondo, cioè noi reciprocamente facciamo finta di essere sani. Tu credi che io sia sano, io credo che tu sia sano. Siamo tutti malati, chi più chi meno, ma abbastanza messi male tutti. Quindi è un'economia che ha fatto, è un modo di sviluppare l'economia che ha fatto il suo tempo. Ormai è l'ultima ratio, è il debito. Quindi... Poi per paradosso, se tu vai a vedere nei paesi emergenti la percentuale di debito pubblico rispetto al PIL è molto più piccola. Sono arrivati più tardi, ma soprattutto se teniamo per buono il ragionamento che il debito pubblico serve a chi ha il grano per non pagare le tasse ma tenere in piedi lo Stato, significa che il debito nasce con la ricchezza o con una concentrazione patologica della ricchezza. Per cui se questa concentrazione patologica mi costringe a fare debito, tu hai un paese il cui debito diventa grandissimo perché ha una ricchezza grandissima. Quindi è controintuitivo. In un paese povero, dove la ricchezza è molto molto inferiore, hai molto meno debito. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sull'economia, il dollaro è una moneta di riferimento universale e tutte le transazioni di tutti i noli, di tutti gli scambi di commodities, eccetera, sono tutte denominate in dollaro. Però non riescono più a fare il giochetto che facevano negli anni fino alla metà. Con l'inflazione. Che a un certo punto le transazioni di chiusura dei mercati petroliferi dovevano essere fatte in dollari. Allora noi tutti in Italia dovevamo comprare dollari, comprando dollari avanzavamo il valore del dollaro. Questo gioco non riescono più. Beh, quando tu hai un deficit come quello americano, cioè è come si può dire? Da mangiare agli americani. La merda. Ma lo vedi, ne vedi anche i risultati, Cioè, secondo me il paese a più rischio però è l'America, sono movimenti sociali. L'America è un paese del quarto mondo. Il ragionamento è questo: se applicassero i criteri di Maastricht ai numeri americani, gli americani sarebbero, ma molto peggio della Grecia a livello di rapporti. Per cui è chiaro che loro sono l'eccezione delle eccezioni, d'altronde hanno la moneta, stampano la moneta e via dicendo. Però ragionamento che facevamo una delle ultime volte, oggi l'America per far crescere di un dollaro il PIL deve fare 4 dollari di debito. è ingegneristicamente un piccolo motore che ha una determinata cilindrata, deve produrre sempre più potenza, cosa fai? Aumenti il numero di giri, fin quando il motore cola. E loro sono esattamente in questa situazione. D'altronde è un paese dove, e te lo dice uno che voleva diventare John Wayne, o Steve McQueen o uno così, nel momento in cui tu nasci da un genocidio, che è quello dei nativi, con un problema razziale che non ha niente a che vedere col colore della pelle. C'è un discorso molto, cioè, ne parlavamo l'altra volta, il 48% all'epoca della guerra di successione in America, il 48% degli averi delle persone del sud era rappresentato dagli schiavi. Quindi metà della ricchezza erano uomini, eccetera, eccetera, con tutte le transazioni che facevano, eccetera. Quindi è un paese che ha milioni di cose che attirano, ma è un paese che fondamentalmente ha una genesi nella crudeltà, dove non si fanno sconti, ma non si fanno sconti, e qui veramente finisco, non si fanno sconti sulla premessa morale che se tu ti impegni e ti fai il mazzo sarai premiato, per cui quelli che sono stati premiati è perché se lo meritavano. Allora questo è il grande inganno, e lo diventa ogni volta di più. L'America è rimasta un paese con concentrazione di capitale relativamente basso, meritocrazia, sviluppo, eccetera, eccetera, fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Loro erano terrorizzati da diventare come l'Inghilterra, per ovvie ragioni, che era un paese di privilegi, di feudalesimo, dei lord, di una serie di caste, eccetera, eccetera. Allora, l'unica cosa che loro avevano in testa, non vogliamo diventare come quello che era il nostro padrone fino all'altro giorno. Finito questo periodo, soprattutto tenendo conto, come sapete bene, che la prima e la seconda guerra mondiale in America non sono mai arrivate, cioè nessuno ha distrutto fabbriche, città, impianti e roba del genere. Quindi loro in sostanza hanno detto, oh, il nostro capitale è intatto, sì, abbiamo chiaramente, soprattutto nella prima, abbiamo fatto donazione di corpi in giro per l'Europa, ma sostanzialmente hanno detto, cavolo, però gli altri hanno distrutto tutto il capitale, la Germania nella cacca, l'Inghilterra ha comunque si è spesa, Francia eccetera eccetera, noi no. Per cui cominciamo a tenere da conto quello che abbiamo. E da lì c'è stata, quindi diciamo più o meno 100 anni fa, c'è stata un'inversione di tendenza pazzesca. Quindi è diventato il paese dove l'accumulazione è più forte e soprattutto non ci sono state queste deflagrazioni che hanno hanno riazzerato il contatore, come dicevamo prima, in Europa. Quindi cosa vuoi che ti dica? È un bluff. Che nessuno ha le carte per andare a vedere, o a nessuno forse conviene andare a vedere quel bluff lì. La Cina poi dice sì, ma io voglio diventare la moneta di riferimento con tutte le rotture di scatole che ciò comporta. No, l'Europa ora che decidono se farlo o non farlo, è già finito il film. E quindi è chiaro che quella moneta lì, come dicevamo prima, a loro fa un comodo dall'accidente, stampano debito, lo compri tu. È la domanda delle domande. È la domanda delle domande. Ma ha ragione lui. Qualcuno deve avere il controllo, ma non siamo noi. Come diceva Woody Allen, no? Diceva una buona notizia e una cattiva notizia. Qual è la buona? Dio esiste, e la cattiva che non sei tu. E quindi noi non abbiamo sta possibilità, insomma. Fino a dove? Fino a quando? La domanda delle domande. Comunque tutto questo, la situazione non è da prendere sotto gamba, perché il fatto che gli Stati Uniti d'America nella realtà non possono organizzare un incontro di pugilato con nessuno, perché non si trova il contendente, però nel frattempo l'ordine aumenta. E insomma, questo avvenimento della guerra in Ucraina, quando noi parliamo di questo, non dimenticandosi delle cosiddette guerre della Jugoslavia accadute 30 anni fa, però qui parliamo della guerra dentro il mercato più importante del mondo, ma per una ragione, perché è un mercato anche pagante, a differenza di tutto. È recente che, siccome si parla dell'attività dei cinesi, che adesso ultimamente i cinesi che si sono messi a investire, diciamo così, nel continente africano, che adesso stanno al momento rivedendo, perché c'è un problema, vabbè, tu investi, ma poi dopo devi avere anche un ritorno, un qualcosa. Hanno detto, cazzo, ma qui non è che ci siamo messi dentro, che facciamo l'opera assistenziale. È un po' come la mia Inter. È successo come con l'Inter. Hanno detto, adesso fermi tutti. Ma bisogna guardare però anche dove investono i cinesi. Sì, ho capito. Anche investono in condomini. Poi investono sempre in dollari. No, in Africa non stanno investendo in condomini. No, loro stanno investendo in infrastrutture, risorse naturali, miniere, giacimenti. I russi hanno più alto credito rispetto agli americani, lo detengono cinesi e russi. Comunque, sapete qual era il debito top, numero uno, considerato rating super, eccetera, eccetera, 100 anni fa? L'Argentina e la Russia. Cambiato un po', Bene, dai. Grazie mille. Grazie mille. La prossima.